Che porto in tasca, chiudono due porti e un'imperriata, non ricordo mai quale sia la giusta, che batta fuori le tue parole con una mandata. Capisco come riesci sempre a rientrare tra queste mura, a rientrare tra queste mura. Sospetto tu abbia imparato ad infilarti nella serratura, ad infilarti nella serratura. Sento di essere il solo autore di questo imbroglio, di questo imbroglio. Abituato a disconoscere la chiave che ci possa allontanare, orecchie solitarie, voli del monolocale. Abituato a disconoscere la chiave che ci possa allontanare, orecchie solitarie, voli del monolocale.